Allora, cosa farà la BCE? Cosa dovrebbe fare? Le dichiarazioni rilasciate dal presidente Draghi hanno cambiato le prospettive dell'Eurozona. Il Draghi che dice faremo tutto, farò tutto il possibile, nella sua veste ovviamente di presidente della BCE, per salvare l'euro. Così scrive Guido Tabellini questa mattina in prima pagina sul Sole 24 Ore. Le prospettive dunque sono cambiate, ma hanno anche generato aspettative che ora sarebbe pericolose. Deludere. La BCE che cosa dovrebbe fare? Insomma, la BCE dovrebbe acquistare sul mercato secondario i titoli di Stato di paesi come Italia e Spagna, che seppure in una posizione di solvibilità sono diventati illiquidi perché hanno perso la fiducia dei mercati, fiducia dunque. I dubbi sulla loro permanenza nell'euro drenano risorse finanziarie dai paesi del sud Europa, l'incertezza blocca qualunque decisione di investimento. Insomma, senza fiducia non vi può essere crescita e l'assenza di crescita alimenta ulteriore sfiducia. Bene dunque l'asta BTP, tassi sotto il 6%, questo è il titolo di oggi del Sole 24 Ore, con Berlino che dice la BCE sta facendo il suo dovere e Geithner in visita dagli Stati Uniti appunto in Europa, bene le riforme di Italia e Spagna. L'apertura dunque del Sole 24 Ore, che poi sottolinea la reazione positiva delle borse europee ancora in rialzo, con un Piazza Affari che è la migliore con un balzo del 2,8%. Gli altri due temi, direi che qui sono raccolti davvero i tre grandi temi di giornata, quindi il grande fronte europeo, ma di fatto economico e mondiale, i temi più interni che riguardano quello della spending review e che dunque si lega strettamente al precedente. Oggi il voto di fiducia del Senato, il titolo è Università, un freno alle tasse, l'università dunque, ma sono diversi appunto i capitoli trattati. Il maxi emendamento al decreto legge sulla revisione di spesa che andrà oggi al Senato per il voto di fiducia dopo uno slittamento di 24 ore, mette un freno alle tasse universitarie perché è un reddito familiare basso, ma conferma gli aumenti per gli studenti fuori corso. E poi sui farmaci generici invece si ritorna, diciamo, dopo 24 ore di fibrillazione sui farmaci generici, dicevo, si torna alla decisione del medico. Passo indietro poi sull'estensione dei tagli alle SPA pubbliche controllate. Questo è il secondo grande tema. Il terzo, la politica. La politica che è quello appunto della legge elettorale. C'è stata agitazione su questo fronte e il Colle torna a farsi sentire. Chi lo sceglie, chi sceglie appunto questo tema come il titolo d'apertura è La Stampa e altri quotidiani. Voto anticipato decido io, il virgolettato di Napolitano che dice ai partiti la data delle elezioni è prerogativa del Quirinale, spetta solo al capo dello Stato la valutazione sul voto anticipato. Lo scrive Napolitano in una nota nel quale chiede di nuovo ai partiti una larga intesa sulla legge elettorale. Insomma, in queste settimane abbiamo visto una, devo dire, non nuova sequenza di dibattiti, presentazioni, riflessioni sui modelli tedeschi, spagnoli in versione catalana e così via. Insomma, i modelli non mancano mai, manca la decisione, manca evidentemente la volontà per ragioni che sono di interesse individuale, appunto di interessi dei singoli partiti, che riguardano i sondaggi che condizionano evidentemente le aspettative di vittoria, ma anche le previsioni di sconfitte, e che dunque possono essere modulate dall'impiego di un dato sistema elettorale piuttosto che un altro. E risultato, si arriva all'impasse, l'impasse che prova a smuovere il presidente di nuovo sulla legge elettorale, appunto decido io, dicendo sul voto anticipato che era stato evocato ieri in particolare dai leader del PD in mancanza di un accordo sul tema, dice non siete voi a decidere. Ecco, questo direi che sono i tre grandi macro temi della mattinata. Adesso una notizia che è in prima pagina sul Secolo XIX, sul quotidiano genovese, ma che forse meriterebbe, come dire, più spazio, è quella appunto di un lavoro che si proietta sui mesi, sugli anni a venire. La costruzione di una nave di 130 metri di lunghezza non è uno scherzo, coinvolge molte persone, in questo caso una nuova commessa per la costruzione di un traghetto per una società canadese, riguarda appunto la Traversée du Québec, quindi appunto una società canadese, un contratto da 147,6 milioni di dollari per costruire un'unità lunga 130 metri in grado di trasportare 800 persone, 188 veicoli. Non è una supernave, spiega Alberto Quarati appunto sul Secolo XIX, non è una supernave da crociera, quella a cui negli ultimi anni abbiamo in qualche modo ancorato anche spesso le speranze della cantieristica, ma la commessa è importante per almeno tre ordini di motivi. La prima, perché l'unità sarà costruita in Italia; la seconda, perché Fincantieri non riceveva da sei anni la commessa di un traghetto. Sei anni sono un sacco di tempo, l'ultimo è stato costruito per Minoan è consegnato nel 2010. La terza, perché l'azienda, presentando la nuova commessa, ha sottolineato che si tratta di un'unità ibrida, cioè di un particolare sistema di propulsione dual fuel, quindi con la possibilità di alimentare a gas questa singola nave. Insomma, lavoro, innovazione tecnologica, lavoro italiano e industria pesante. Nel giorno in cui registriamo e continueremo a registrare gli sviluppi delicati, complessi, preoccupanti della vicenda Ilva a Taranto, mi piace sottolineare questa notizia che arriva, come vi dicevo, da Genova. Allora torniamo invece alle aperture. Per Repubblica e BCE la svolta di Berlino. Dunque la cancelliera apre agli interventi della Banca Centrale. Bene l'asta dei BTP, tassi sotto il 6%. A centropagina il riscatto di Federica. Federica caccia del riscatto nei 200. L'abbiamo sentito anche nel racconto mattutino dei nostri colleghi, dei nostri inviati alle Olimpiadi di Londra. Dopo la grande delusione c'è la grande, diciamo, c'è anzi una forte di nuovo speranza perché ci sia un'occasione di riscatto. USA e Germania, bene l'Italia per il Messaggero, il quotidiano romano, che però in prima pagina sottolinea anche un altro tipo di emergenza, il suicidio a Regina Coeli. Interviene il ministro, era sorvegliato a vista, ma l'uomo, un tunisino di 25 anni, si è tolto la vita stringendosi intorno al collo l'elastico degli slip. È successo l'altra notte a Regina Coeli e ieri mattina il ministro della giustizia Paola Severino ha visitato il carcere romano, un blitz per toccare con mano le carenze gravi del centro, dove era ricoverato da qualche minuto il giovane detenuto, quindi sorvegliato a vista e si suicida in questo modo. Evidentemente tra le due cose c'è qualcosa che non quadra: servizi igienici che non funzionano, impianti elettrici fuori norma, pulizia degli ambienti affidata a pazienti e piantoni. Questa la denuncia del garante dei detenuti del Lazio, Angelo Marroni, che ha chiesto di approfondire le circostanze della morte del tunisino. Dall'inizio dell'anno sono 34 i reclusi che si sono tolti la vita nelle carceri italiane. Questo è l'allarme che viene riportato oggi in prima pagina dal Messaggero. L'apertura di Berlino ancora è agli interventi BCE, i commenti positivi, il vertice tra Geithner e Schauble per l'apertura del Corriere della Sera, che nel taglio centrale sceglie invece l'altolà del Presidente della Repubblica. Napolitano dunque frena sulla crisi pilotata in autunno e chiede più cautela. A centropagina c'è una bella immagine che ci porta invece di nuovo ai giochi olimpici. Occupa la pedana e piange, è un trionfo. La coreana perde e blocca la gara di spada per un'ora. Succede anche questo a Londra 2012, in questa trentesima edizione delle Olimpiadi Moderne. Un fuori programma, Lam Shin si rifiuta di scendere dalla pedana dopo aver perso la semifinale, dà vita a un vero e proprio sit-in. Intanto, e questo lo ritroviamo su diverse testate, poi chissà, avremo magari tempo di approfondirlo, aumenta il sospetto intorno al caso Ye Shiwen, la sedicenne cinese che ha nuotato più veloce di Lochte e Phelps. Naturalmente l'ombra, anche se qui appunto direttamente in questa didascalia, in questa citazione della prima pagina del Corriere non viene evocato, è il pensiero ovviamente al doping. Impressionante peraltro la gara della cinese due sere fa. Il Fatto, la ragion di stato del Quirinale, la consulta processo Ingroia, telefonata ai Mancino Napolitano con il deposito del ricorso alla Corte Costituzionale, Colle formalizza l'attacco alla Procura di Palermo che indaga sulla trattativa tra Stato e mafia. Nessuno deve sapere. Il Fatto Quotidiano oggi, l'apertura che insiste a sua volta anche sul tema delle carceri, l'inferno carcerario a luglio, 10 suicidi tra detenuti e agenti. Per Il Giornale invece, fuga di soldi all'estero. Il fondo a firma di Vittorio Feltri spiega che solo nel mese scorso, con l'acuirsi della crisi a onta delle cure di Mario Monti, al quale molti attribuiscono virtù taumaturgiche, hanno preso il volo dall'Italia 23 miliardi, ovviamente di euro, planando chissà su quali istituti di credito stranieri. Quindi fuga di soldi all'estero, in due anni sono espatriati 300 miliardi di euro. Monti, scrive Il Giornale, diretto da Sallusti, ha dichiarato guerra al denaro ma è stato sconfitto. A centropagina invece una foto, questa volta non sono olimpiche le immagini, spesso come accade spesso appunto in queste ore, in questi giorni, è invece l'allenatore della Juventus Conti. La Juve si arrende, Conte patteggia, la società ha deciso, il mister si fermerà controvoglia per tre mesi. Quindi il tema del calcio scommesse, e per omessa denuncia di Combin, Conti patteggerà dunque tre mesi di squalifica. Veto anticipato invece il titolo del Manifesto, in questo caso l'immagine non può che essere quella del capo dello Stato. Sul voto anticipato decido io, Giorgio Napolitano richiama all'ordine il PD. E invece La Padania annuncia spending review, il capogruppo del spending review interna, in questo caso il capogruppo alla Camera, annuncia un emendamento unico della Lega, ma anche appunto i lavori interni, i lavori di riorganizzazione del partito. Il titolo dopodiché è contro le porcate romane, diamo i soldi agli esodati. E il Consiglio federale, dunque, sulla questione interna al partito, sui lavori di pulizia interna al partito, dice divieto di ricoprire un doppio incarico elettivo, una riduzione del 50% delle spese del movimento in modo da avere maggiori risorse da destinare all'attività politica delle sezioni. Legge elettorale basta giochi, questa è l'Unità ovviamente citando il presidente. E invece ancora per quanto riguarda Avvenire, un tema completamente diverso, rogo intimidatorio, assedio alla chiesa, riferimento contro i roghi tossici, appunto fenomeno denunciato dal quotidiano dei vescovi, e ora una reazione appunto di chiaro, diciamo, stampo mafioso a Caivano, vigilia di consiglio comunale aperto e della riunione delle parrocchie dell'area, bruciate montagne di copertoni vicino a San Paolo. Ecco qua, abbiamo fatto un percorso attraverso quelle che sono le prime pagine. Intanto abbiamo fatto le 7:40 minuti. Io direi che possiamo andare ad approfondire quelle che sono quello che è stato poi il primo tema che vi ho citato, quello europeo, le misure d'emergenza per affrontare la crisi nel corso di una settimana che prevede, come sempre di fatto ormai, una nutrita agenda di incontri. Ecco, per adesso per Mario Draghi, scrive Alessandro Merli da Francoforte, riportate oggi sul Sole 24 Ore. Per Mario Draghi dunque viene il difficile. La settimana scorsa Londra ha detto che nei limiti del proprio mandato la Banca Europea, la Banca Centrale Europea, è pronta a fare tutto il necessario per salvare l'euro e, credetemi, sarà abbastanza, aveva così detto il appunto Mario Draghi. L'immediato avallo dei leader dei più importanti paesi dell'area euro indica che il presidente della BCE non si è mosso senza avere le spalle coperte, nonostante l'opposizione della Bundesbank. Giovedì però Draghi è atteso dai mercati finanziari al passo successivo, la delivery, dunque la consegna e la conferma che non erano solo parole. Le aspettative, ecco che ci siamo tornati, abbiamo parlato fin dall'inizio di fiducia, aspettative, prospettive di futuro, orizzonti nel mercato del lavoro. Insomma, le aspettative sono forti, ma gli stessi mercati non sanno bene cosa aspettarsi, anche perché in 9 mesi il nuovo presidente della BCE li ha sorpresi in diverse occasioni. L'Euro Tower ha diverse opzioni disponibili, nessuna senza controindicazioni. Un'altra frase pronunciata da Draghi giovedì scorso, cioè il rialzo degli spread danneggia il funzionamento del canale di trasmissione di politica monetaria, ha fatto pensare a molti alla possibile riattivazione degli acquisti di titoli del debito pubblico, il cosiddetto programma SMP, che proprio ieri la BCE ha confermato essere rimasto inutilizzato la settimana scorsa per la 20ª volta consecutiva. Insomma, con quelle esatte parole, la banca ha giustificato in passato i suoi interventi, in quanto la divaricazione del rischio paese ha impedito che la politica monetaria avesse la stessa efficacia in tutta l'eurozona. Questa è l'attesa per la prova di giovedì, quindi per la trasformazione dalle parole all'eventuale azione, perché appunto poi i giochi sono estremamente delicati, a volte il contenuto psicologico, come abbiamo visto, sovrasta ampiamente quello della sostanza, quindi non necessariamente ci si deve attendere iniziative particolarmente significative. E sempre invece sul fronte delle date, abbiamo detto questo giovedì, in una settimana che vede peraltro il Premier invece Mario Monti in attività sul fronte europeo, dicevo, un'altra data che viene indicato in questo caso dal primo piano della stampa è quello del 12 settembre. 12 settembre, un nuovo D-Day per l'Europa, l'inizio di una crisi devastante o l'avvio della ripresa. E così, questo è un articolo a firma di Marco Zatterini, il corrispondente da Bruxelles della Stampa, ci fornisce una cronaca del mercoledì che scriverà il futuro dell'UE. Allora, perché questo 12 settembre rischia di diventare il D-Day per l'Europa? Ecco, 5 appuntamenti vengono indicati. Il primo è la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca sulla legittimità degli acquisti di bond e sul salvastati ESM, è il giorno stesso delle elezioni olandesi, i tifosi del rigore, se otterranno un buon risultato, potrebbero ostacolare il fondo salvastati. Lo stesso giorno il presidente Barroso pronuncia il discorso programmatico di fronte al Parlamento europeo, quindi in questo caso siamo veramente nel pieno campo della fiducia e della proiezione. Ma lo stesso momento la Commissione UE conta di presentare la sua proposta per l'unione bancaria con la supervisione coordinata dalla BCE, e quindi qui invece è sostanza. Infine il 13, vabbè, è il giorno successivo, a Nicosia, quindi Cipro, comincia la riunione informale dei ministri economici della Comunità Europea e di Eurolandia. Insomma, se l'estate calda dell'euro, di cui attraverso appunto il gruppo che il Sole 24 Ore peraltro vi racconta da qualche settimana, come vedete, occuperà interamente quello che è lo spazio anche astronomico, si spingerà fino ai confini del mese di settembre. Visto che siamo in tema di appuntamenti a breve e medio termine, ve ne segnalo un'altra che riguarda una missione di grande impatto tecnologico e che ci porta su Marte. La NASA li ha battezzati i 7 minuti di terrore. La missione planetaria più difficile che l'agenzia abbia mai concepito, afferma il direttore Grunsfeld. All'atterraggio mozzafiato del robot Curiosity su Marte manca ormai meno di una settimana. All'alba del 6 agosto, una delle più ambiziose macchine scientifiche costruite dall'uomo inizierà ad esplorare il suolo marziano. Dunque 7 minuti di vero terrore. Perché? Perché dopo 567 milioni di chilometri percorsi in 9 mesi, il robot della NASA, il primo della nuova generazione dei robot della NASA sul pianeta rosso, dovrà fare tutto da solo, dovrà rallentare la velocità 5.900 metri al secondo, 21.000 chilometri orari all'inizio dell'operazione, per ridurre in qualcosa come un metro al secondo. Insomma, una frenata micidiale in autonomia, perché a quella distanza basta ricordare che le comunicazioni radio impiegano 14 minuti per arrivare a terra, quindi 28 per fare 2 percorsi. Insomma, nessun aiuto per il robot, se la dovrà cavare da solo. Un altro appuntamento che magari oggi ci sembra un po' non solo lontano, perché lo è obiettivamente, ma anche rispetto all'attualità che ci stringe d'assedio, che viceversa, un po' come le navi in apertura, significa tecnologia, ricerche, anche prospettiva di un futuro. Invece torniamo in Italia. Allarme incendi in Italia, i boschi vanno in fumo. Dal 1 gennaio al 15 luglio 200% in più di aree incenerite, raddoppiate le richieste d'aiuto sotto accusa piromani. Anche quest'anno si rinnova la domanda come riuscire a fermarli. Oggi questo primo piano sull'ambiente, il patrimonio verde, una doppia pagina della Stampa, che dà voce tra l'altro al capo della protezione civile, che è portatore di un appello, dice: i tagli rischiano di lasciare a terra i Canadair, dunque i grandi aerei, 14 Canadair che fanno la parte del leone delle forze in campo contro gli incendi. Il problema della carenza di fondi esiste, spesso viene usato come alibi. La verità è che occorre fare delle scelte, stabilire le priorità. La lotta agli incendi, dice Gabrielli, lo è senz'altro. Il prefetto, capo della protezione civile, è categorico: oltre a una più diffusa cultura di comportamenti improntati al rispetto dell'ambiente, occorrono investimenti sia per la flotta aerea di Stato sia per le squadre di terra. Spero che qualcuno mi ascolti, che le mie parole non cadano nel vuoto, corriamo rischi troppo alti. Insomma, spending review, visto che è un po' il sottofondo di queste giornate, significa anche scelte, non solo tagli, magari tagliare altrove. Il patrimonio boschivo, le implicazioni sull'ambiente naturalmente, e immediatamente sull'economia, sul turismo, sulla crescita, sul ritorno alla crescita di un paese come il nostro, sono sicuramente un investimento prioritario. Ecco, e adesso dalla crisi, dalle difficoltà italiane, facciamo un balzo invece lontano, in India, per una segnalazione oggi dalle pagine di Repubblica, che racconta in una serie di articoli, in un articolo principale a firma di Federico Rampini, quello che è stato il più grande blackout dell'India. 350 milioni di persone sono rimaste al buio, 350 milioni di persone, quindi di fatto l'intera popolazione europea. Certo, per l'India è poco più di un terzo del miliardo complessivo, ma al di là dell'evento, insomma, i blackout sono sempre degli eventi di grande impatto, c'è una riflessione sul buio, sul gigante. Il più grande blackout dell'India, scrive infatti Rampini, è il simbolo di uno sviluppo interrotto. E nelle pagine interne, mentre ci si interroga che cosa accade se l'India va in panna, ecco qua, 360 milioni, ne ho dimenticati 10, 360 160 milioni di persone sono rimaste al buio a causa della madre di tutti i blackout. Le interruzioni della corrente elettrica affliggono il subcontinente da anni. A far deragliare il miracolo economico della seconda nazione più popolosa al mondo è l'amministrazione pubblica, inerte e corrotta. E oggi, per far fronte al rischio di una crisi, il paese si affida al premier. Dicevo, in questa grande doppia pagina c'è anche un'intervista a un consulente, si chiama Satya Sivaraman, consulente di ONG e fondazioni, attivista sociale, analista politico, osserva il suo enorme paese dai piccoli e spesso inavvertibili cambiamenti che accadono attorno a sé. Dice: all'inizio delle liberalizzazioni dell'economia indiana negli anni 90 non c'erano nemmeno i soldi per acquistare il petrolio. L'attuale premier Singh era ministro delle finanze 20 anni fa esatte. Grazie ai suoi legami con i templi del capitale mondiale gli fu affidata l'apertura dei mercati. Quando è diventato primo ministro del suo paese, le richieste dei referenti stranieri crescevano, ma Singh, che non è un politico, dice Sivaraman, diventava sempre più dipendente dai numerosi partiti che formano la sua coalizione. E ancora, come si spiega questa contraddizione così forte, se vogliamo anche tradizionale, di un paese come l'India, chiede l'autore dell'intervista, Raimondo Bultrini, un paese che di fatto è uno dei più ricchi anche di miliardari del pianeta. E il, appunto, l'economista e consulente indiano dice: la contraddizione di un continente che venera dei guerrieri, fa mangiare le immondizie alle vacche sacre, sta nella mancanza di compassione. E conclude: mi è difficile dirlo da indiano, ma basta guardarsi intorno. Insomma, la crescita e lo sviluppo di un enorme paese come l'India nelle sue laceranti contraddizioni. Eccoci qua, 7:53 minuti. Peter Bescapè, abbiamo ancora due minuti, perfetto. Allora, abbiamo tempo per parlare, per segnalare qualche lancio che riguarda i giochi olimpici. Naturalmente ci sono i risultati, le aspettative, però ci sono anche, come dire, dei temi di taglio. Per esempio, uno di questi è: niente oro, siamo inglesi, da Cavendish a Daly in crisi, campioni della regina. Così come l'Austerity Germania, la prima medaglia arriva fuori tempo massimo, mentre noi italiani eravamo già lì un po' a lamentarci che dopo il raccolto straordinario delle prime ore c'è stato un inevitabile rallentamento, perché insomma podi completi, come abbiamo visto nella scherma femminile, non è che sono cose che accadono, anzi a volte non accadono semplicemente mai. Dicevo, inglesi e Germania invece hanno altri problemi. Chi invece è letteralmente obbligato a vincere, come racconta oggi in un lungo articolo sul Manifesto, è Wang Hao, che è un giocatore di ping pong cinese, all'interno di un servizio di Matteo Patrono, che racconta come il ping pong, insomma la storia del ping pong, di fatto sia iniziata a Londra. È infatti un gioco che l'impero britannico esportò a Shanghai negli anni 30 e nel giro di 20 anni si trasformò in sport nazionale, il preferito pure di Mao Zedong. L'anno di svolta è il 59, quando lo sconosciuto Rong Wotang conquista il titolo mondiale di tennis tavolo. Il primo ministro Chou Enlai lo ribattezza l'anno della doppia felicità, perché il primo storico successo sportivo della Cina a livello internazionale coincide col 10° anniversario della fondazione della Repubblica. E da lì, insomma, il ping pong viene indissolubilmente legato a quella che è la cultura, anche l'immagine della Cina ai giochi olimpici, ma non è sempre stato così. Infine, una segnalazione dalla Gazzetta dello Sport: bufera Twitter, coreani datevi fuoco, Morganella cacciato. Il difensore svizzero li definisce ritardati mentali, poi chiede scusa: ho fatto un grave errore, troppo tardi. Il suo allenatore lo caccia dalla selezione. Ecco, Twitter è vietato per gli atleti in gara, ma spesso tollerato, a volte, e non è il primo caso, è davvero, come dire, finisce per costare caro a chi scrive legittimamente i propri pensieri senza evidentemente pensare alle conseguenze. Con questa bufera Twitter dalla Gazzetta dello Sport chiudiamo questa parte. Vi ricordo, riparleremo di giochi olimpici a partire dalle 8:20 e anche e soprattutto di università, naturalmente anche con la vostra partecipazione, se vorrete intervenire al numero verde 800 24 00.